Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. L'inquinamento minaccia la salute delle nostre ossa, diminuendone la densità e aumentando il rischio di osteoporosi, è quanto suggerisce un ampio studio del Barcelona Institute for Global Health, pubblicato sulla rivista JAMA Network Open, che commentiamo con la professoressa Maria Luisa Brandi, ordinario di endocrinologia all'Università di Firenze. Lo studio è stato condotto in realtà in India, elaborato dall'Istituto di Barcellona, e ha analizzato una popolazione che vive in un'area periurbana in cui in realtà la contaminazione ambientale è molto alta. Quello che è veramente importante è ricordare che essere esposti ad agenti ambientali che sono contaminanti interferisce con la situazione infiammatoria generale, lo sapevamo già anche per il tabacco, il fumo che danneggia l'osso, aumentando il riassorbimento osseo e quindi la perdita di massa ossea. Quindi questo studio non fa che confermare quello che già sapevamo, e sappiamo anche che in zone molto contaminate purtroppo lo smog porta anche a una riduzione dell'esposizione alla luce solare, che poi conduce a una riduzione della produzione di vitamina D a livello cutaneo. Quindi da una parte gli agenti che creano infiammazione nel nostro corpo, che causano poi malattie cardiovascolari, causano anche perdita di massa ossea, dall'altra parte l'esposizione ai raggi solari non è più efficiente come dovrebbe essere e quindi noi perdiamo osso. Buone notizie per i neomaratoneti. La maratona è un esercizio che fa ringiovanire di 4 anni il sistema cardiovascolare. Lo rileva una ricerca pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology, che commentiamo col professor Giulio Stefanini, specialista in cardiologia clinica e interventistica in Humanitas e docente di Humanitas University. Esatto, uno studio molto interessante di un gruppo inglese è andato a valutare una popolazione di persone sane tra i 20 e i 69 anni che facevano la maratona per la prima volta, la maratona di Londra, si preparavano alla maratona. Ora, di fatto noi sappiamo che l'invecchiamento si associa a un irrigidimento della parete aortica, quindi questo irrigidimento aumenta il rischio cardiovascolare. Sapevamo pure già che dei programmi specifici di allenamento molto intenso potevano portare a una riduzione di questo irrigidimento, però in realtà erano programmi di allenamento non applicabili nel mondo reale. Quindi questi studiosi hanno deciso di valutare se la preparazione a una maratona per persone che preparavano la maratona per la prima volta si associasse o meno a una riduzione di questo irrigidimento, e hanno visto che nel giro di 6 mesi c'era una riduzione dell'irrigidimento aortico, quindi di fatto un ringiovanimento di queste persone durante la preparazione alla maratona. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto in diretta Facebook, oggi parliamo di macchie cutanee e di nei, non mancate, vi aspetto, buona giornata da Nicoletta.